Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il meccanismo della truffa è sempre lo stesso: affabilità, cortesia e ottima capacità dialettica. Gli anziani finiscono nella rete dei truffatori che riescono a raggirarli con estrema facilità. Oggi vi parliamo di un'altra truffa, la truffa dell'anello. Viene scelta intanto la vittima. Il furbacchione finge di trovare un anello per terra, lo raccoglie, cerca magari di farsi notare e poi con abilità mi si avvicina. Spesso basta fare il nome dei figli, parlare di debiti da saldare o millantare un rapporto di amicizia per farsi consegnare somme di denaro anche importanti. E qui le opzioni sono diverse. C'è chi ha fretta ed è disposto a lasciare l'anello in cambio di una mancia. Può accadere che anche la vittima non sia proprio un esempio di onestà e quindi sostenga di essere il padrone di quell'anello e che per compassione decida di dare una mancia a chi gliel'ha raccolto. Ecco, il truffatore se ne va con 20, 30, 40 euro in tasca. Io rimango con questo anello che credo sia d'oro e quindi sono convinto che possa certo, valere molto. Potrò essere accusato di non contribuire al passaggio di un sereno Natale. Ieri vi ho parlato delle zitellone solitarie, il giorno prima dei taccagni che approfittano della crisi per tenere il braccino corto, e oggi voglio parlarvi di un fenomeno che normalmente è sottaciuto, sotto feste tutti vogliono trasferire e contaminare con l'ottimismo i propri simili. No, io voglio dirvi che invece sotto Natale c'è chi normalmente vive truffando i propri simili, ne approfitta perché nessuno pensa, pochi pensano, immagino, che l'animo umano nella sua crudeltà, nel suo essere esacerbato, possa esprimersi sotto il clima dell'alberello in maniera così crudele, ma in realtà è così. Le truffe, soprattutto le piccole truffe, le truffe minimali, le truffe a danno delle persone più deboli, più sprovvedute, più ingenue, più buone fondamentalmente, hanno un picco sotto le feste di Natale. Quindi questa mattina, se posso, vi darò qualche indicazione per cercare di salvarvi o di contaminare questo spirito di legittimo sospetto anche nelle persone che pensano che il Natale sia tutto carillon, renne, Babbo Natale, angioletti e re magi. 800 24 0024. Indizi della truffa online con offerta di Cuccioli. 1. L'annuncio online promette in regalo un cucciolo di razza pura. 2. Il cucciolo deve essere trasferito da uno stato estero. 3. Si richiede un pagamento anticipato per il trasporto, spesso una piccola somma. 4. Si propongono transazioni con sistemi non sicuri. Questo è un primo scenario. Le truffe online, di cui parleremo ampiamente, sono quelle che si approfittano di una fascia intermedia di pubblico, di persone che hanno sì fatto il salto verso il mondo digitale, ma non sono così perfettamente attrezzati per conoscerne anche tutte le malizie. Quindi hanno una casella di mail o hanno un profilo su Facebook dove, nel caso di una brava mamma di famiglia, mettono le foto dei bambini, dei compleanni, delle tortine con le candeline, dei loro simpatici giocattoli, e a un certo punto si vedono arrivare la foto di un tenero gattino abbandonato, di un povero cagnolino spelacchiato che non chiede altro che dare affetto per il suo padroncino. E cosa fanno? Naturalmente dicono: questo sarebbe il regalo di Natale meraviglioso per i miei bambini, così salviamo dallo sterminio un povero cucciolotto. E danno il numero della loro carta di credito, della loro carta postale, o i loro poveri spiccioletti vanno in una terribile, terrificante e malvagia associazione a delinquere che, approfittandosi del tenero gattino, del delizioso cucciolotto, della sprovvedutezza digitale delle persone, ne approfittano e gli danno una bella sola. Identikit del truffatore online. 1. È un truffatore di tipo seriale. 2. Si accontenta di estorcere una piccola somma per ogni truffa attuata. 3. Guadagna con la somma di tante piccole truffe. 4. È anonimo. Nomi e numeri utilizzati non corrispondono alla vera identità. 5. Conosce bene le dinamiche e sa come non rischiare di essere rintracciato. 6. Non è un criminale violento. Non si accanisce contro la vittima che lo scopre. 7. Parla con le vittime via email. 8. Racconta spesso di dover cedere il cucciolo a seguito di un trasferimento. 800 24 0024, se qualcuno di voi abbia avuto sentore che dietro quella offerta così spassionata, così disinteressata, così altruista ci possa essere qualche truffa, lo faccia sapere, perché questa mattina abbiamo gli esperti adeguati. Lorenzo Croce, buongiorno. Buongiorno a voi. Lorenzo Croce, presidente dell'AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. Vediamo di raccontare ancora in maniera più particolareggiata le truffe con gli animali. Allora, Facebook è pieno di teneri cucciolotti, di animali seviziati, di animali distrutti, abbandonati o tenerissimi dentro dei cestini. Molte volte cosa c'è dietro? Dietro c'è qualcuno che racconta di avere un animale da regalare, si fa pagare il biglietto di aereo perché l'animale deve arrivare dall'est Europa o dall'Africa o da qualunque altro paese. In realtà l'animale non esiste e uno viene truffato, come dicevate voi, con una piccola somma, magari 100-200 euro, ma l'animale non ci sarà mai. Quindi non c'è nemmeno possibilità che comunque arrivi qualcosa che assomiglia a un animale, c'è sempre dietro una truffa. Ci sono anche altre truffe, diciamo, meno articolate sul mondo digitale legate agli animali? Per Natale è molto facile che un genitore o chi ha un anziano in casa pensi che regalare un cucciolo, un gattino, si regali qualcosa di più che un semplice regalo, ma una compagnia, qualcosa che possa perdurare nel tempo. Non so, gli animali esotici, ad esempio. C'è sempre il film, il cartone animato tridimensionale che viene dal Brasile, viene dall'Africa, quindi tutti vorrebbero l'animaletto corrispondente. Ci sono anche le truffe con i cuccioli di scimmia, i cuccioli di pappagallo o qualunque altro animale con cui viene presentato un animale, si chiedono pochi soldi, ovviamente l'animale di razza viene già dato tutto in regola, scrivono, in realtà l'animale non esiste, quando una volta che uno ha mandato i soldi, poi ci sono anche quelli furbi, tra virgolette, tra i truffatori che vanno avanti, c'è gente che ha speso fino a 4.000 euro per i cani del Cameron per non avere ovviamente nulla, perché ti raccontano che c'è l'assicurazione, che c'è la gabbia da pagare per l'animale, ci sono tutta una serie di cose, prendono persone sprovvedute, in Italia sono 25.000 ogni anno come minimo, che vengono coinvolti in queste truffe e che sono costretti a pagare, perché a questo punto diventa una costrizione, a pagare dei soldi per non avere nulla. Cioè, viene da pensare, con un'infinità di canili che ci sono in casa, di offerte in casa, nel senso in casa nostra, in patria, offerte di animali, persone che comunque hanno cucciolate e le offrono, perché le persone vanno a cercare il cane o il gatto esotico che viene da zone così lontane? Proprio perché si racconta che costa poco, cioè che è gratis, lo regalano e in conseguenza uno dice vado lì, spendo 100 euro per il viaggio aereo, che ne so, dal Camerun all'Italia piuttosto che dall'Etiopia all'Italia, il risultato finale, il cane non arriverà mai, i 100 euro sono buttati via, 25.000 per 100 euro, fate voi quant'è il minimo del quantitativo della truffa. 800 24 0024, stanno arrivando le prime telefonate, io le prendo in ordine sparso, prendendo truffe di varie tipologie, poi avremo gli esperti per rispondere per ogni singolo tipo di truffa. Michelangelo, buongiorno. Buongiorno, allora, essendo voi una radio pubblica, vorrei fare questo annuncio e avvertire persone anziane e non. No, era molto rapida. Mia madre è uscita dal portone, stava andando fuori e all'angolo incontra una persona che sembra, lei pensa che sia io. Allora si avvicina e saluta, ma poi si accorge che non ero io. E questo signore, invece, con fare molto affabile, dice: guardi signora, ho pronto qui il vestito bellissimo che ha preso suo figlio. Ma gli somigliava in qualche maniera? Cioè, questa persona che approfittava, diciamo, di sua madre, forse un po'... No, mia madre era buio. Solo perché era buio? Sì, per il semplice motivo che questa persona ha sorriso, dato che io sono una persona sorridente e positiva. Potrebbe essere stato, diciamo, il figlio di qualsiasi madre, era affabile, simpatico. Esatto, e quindi questo signore è molto affabile, ha detto: guardi, ho pronto qui il vestito per suo figlio e tra l'altro mi hanno versato una capata, ma poi tra l'altro le dico anche: guardi, venga a vedere il nostro negozio perché è bellissimo e suo figlio è veramente stata una persona così affabile. Insomma, ha indorato la pillola perché era tutto falso. E chiedendo ovviamente il saldo, ho detto: guardi, se lei vuole saldare, perché io non l'ho trovato, cosa che io non avevo mai ricevuto. E sua madre ha sganciato? No, mia madre è sveglia. Per fortuna. essendo sveglia e avendo anche, nonostante i suoi 82 anni, per fortuna ancora molto lucida e sveglia, e quindi non ha sganciato nulla, ma più che altro perché non si è fatta abbindolare. Quindi avverto tutti, mamme, zii, nonni e tutto il resto, a evitare queste truffe, perché sono veramente una cosa... Tant'è vero che la nostra portinaia aveva avuto la stessa situazione. Grazie. Quindi, Michelangelo, grazie dell'avvertimento. Bruno, altra truffa. Buongiorno. Questo è un classico, sì. Questa, però diciamola, sì. Perché serve. Sì, Nicoletti, come sempre molto interessante le sue trasmissioni. Niente, la famosa truffa dello specchietto che secondo me sta ritornando un pochettino in auge. Ci è capitata a mia moglie quest'estate, aveva mia nipotina in macchina, ha sentito una piccola botta, dopo 100 metri si è avvicinato un signore con un grosso macchinone, un BMW, dicendogli che gli aveva rotto lo specchietto. Mia moglie non si è lasciata prendere dal panico, mi ha telefonato, fortunatamente ero in zona, e ha detto va bene, sto chiamando mio marito, faremo la denuncia all'assicurazione, ha detto stai attento che è una truffa, e lei ha avuto il sangue freddo di restare lì calma, questo qui si vedeva che cominciava a dare infastidito, sai devo andare in ospedale, mi faccio un'offerta, costa 250, 200, ma alla fine mi dia quello che ha. Di solito 50 euro si accontentano. Sì, infatti, no, dice guarda sta arrivando mio marito, alla fine per farla breve, Nicoletti, e dice no, guardi, mia moglie si sta sentendo male, ha girato la macchina ed è andato via. Quando ho capito che stavo arrivando io e che quindi, insomma, ecco, volevo mettere... Sì, riassumo la truffa, che ci hanno provato anche con me, ma sono caduti piuttosto male. Nel senso, di solito si accosta, si sente un botto, ma in realtà ti tirano qualcosa contro la macchina, non so bene cosa. C'è un rumore di impatto. Si fermano un po' una macchina, sono sempre grosse macchine, grossa cilindrata, sono sempre persone apparentemente molto civili e dicono guardi mi ha fatto questo danno, vede questa macchina ha un certo prezzo, di solito mercanteggiano e chiedono 50 miserabili euro così sull'unghia. È sufficiente in questo caso dire chiamo una persona, chiamiamo i vigili, chiamiamo la polizia, vediamo com'è la cosa e si dileguano subito. L'importante è non tirare i soldi subito fuori di tasca e darglieli in mano. Guglielmo Marchetti, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore, a tutti i radioascoltatori. Allora, Guglielmo Marchetti è funzionario della Polizia Locale presso la Procura di Roma, dirigente dell'ANASPOL, che è l'Associazione Nazionale Agenti Sottufficiali delle Polizie Locali. L'ANASPOL ha tenuto un corso antitruffa per gli anziani del Lazio. Noi questa mattina abbiamo fatto un primo colpo d'occhio sulle truffe, ma vediamo di entrare più nel particolare. Quali sono le truffe più frequenti e soprattutto le vittime più evidenti di queste truffe? Nel periodo natalizio. Sì. Purtroppo devo dire che sono gli anziani le vittime, perché poi sono quelli praticamente più indifesi. La più natalizia delle truffe è quella che sta in voga in questo periodo, tra gli altri sono stati arrestati anche delle persone ultimamente, è quella dei finti Babbo Natale, accompagnati da donne vestite da befana che chiedono i soldi per fantomatiche associazioni, suonando ai campanelli delle case. Ne girano anche a Roma, ne ho visti parecchi. Sì, per bambini poveri, anche per i cagnoletti, come diceva prima il suo... Si hanno anche un cesto delle volte di cagnolini pulciosi. Sì, cagnolini, anche per altre donazioni, oppure gli stessi falsi promotori che si presentano nelle case con tanto di finto tesserino di riconoscimento, finte carte intestate. Ricordo, e ricordava anche lei, che con internet è facile che copia e incolla possedere i loghi delle associazioni, è facilissimo, quindi vengono con queste carte intestate, con i tesserini e ti fanno credere che devi aiutare i malati di sclerosi multipla o i bambini poveri, facendo anche vedere delle foto di questi poveri bambini abbandonati, insomma messi in condizioni un po' particolari, sai, i nonni male, no? Si mettono e quindi presi da, gli danno qualche soldo, qualche spicciolo. Cioè questi comunque sicuramente usciranno con qualche soldo. Quindi si approfitta del fatto che a Natale tutti ci vogliamo sentire buoni, abbiamo pietà, vanno in giro con foto di pseudo bambini affamati. Ma vestiti da Babbo Natale, dottore, vestiti proprio da Babbo Natale. E da Befana. E anche da Befana, vestiti sempre. Babbo Natale e la Befana. Quindi diciamo è un racket perché fornisce... Il format, noi una volta facemmo i format delle truffe, mancava questo format, il format è Babbo Natale. È ultimo perché sono stati arrestati l'altra settimana. Ah, quindi è una cosa recente. Sì, ma è una trentina di persone che sono state arrestate perché dietro c'è tutto un giro poi, no? Chiaramente. Li vestono, li organizzano. Sì. Fermiamoci un attimo, Mariano, Mariano. Sì, buongiorno signor Nicoletti, volevo solo far presente che all'inizio di questa settimana a mia suocera, una signora anziana di 90 anni, si è presentata a casa una signora ben distinta, con modi molto affabili, e chiedeva di diceva di essere mandata dall'azienda comunale a informare tutte le persone anziane che c'erano state delle truffe, e voleva consegnare a mia suocera un aggeggio che sarebbe servito per, diciamo così, in caso di eventuali altri personaggi che si fossero presentati per chiedere appunto se avevano. Cos'era questo aggeggio? Ma com'era questa cosa? No, mia suocera non è stata in grado di darmi delle spiegazioni, non sono riuscito a capire, probabilmente potrebbe essere stato un qualsiasi oggetto che questa aveva in tasca, così spacciandolo per un qualsiasi oggetto di un rivelatore di truffe, cioè la truffa, esatto, era prendere il rivelatore di truffe praticamente. Esatto, poi questo signore ha visto che mia suocera ha tenuto duro e non avendo nulla a casa ha detto no, io non ho niente a casa, i miei averi sono in banca, e questa qua insomma dopo un po' però ha insistito notevolmente su questa sua richiesta. Quindi non l'ha segnalato, ha segnalato Marchetti, lei sa nulla riguardo a questo tipo di truffa che offrono qualcosa per fuggire dai truffatori? Sì, lo sappiamo anche questo. Io dico solo una cosa alle persone anziane, a chiunque sta a casa da solo, cioè, non aprite quella porta. Nessuno ha detto ad Enel, Acea, INPS, Comune, verrà mai a casa vostra senza che non siate stati proprio voi a richiederne l'intervento. Diciamo questo perché è importante, non aprite quella porta. Guardi, io devo dire che nei pomeriggi che mi capita di stare da solo nel mio studio, è praticamente sempre, tutti i pomeriggi sono a qualcuno, sempre un ragazzo, una ragazza, sì, con il loro tesserino che mi offrono, io ormai lo so, mi viene da ridere, li faccio parlare, sì, mi offrono fantomatiche offerte per la bolletta della luce, sì, del gas, dell'acqua, mi chiedono come sono connesso con internet, li faccio parlare mezz'ora, poi li prego di allontanarsi dal palazzo perché ci sono molte persone anziane e so esattamente quanto poi possono esserne vittime. I tesserini, l'abbiamo visto dottore, possono essere sempre clonati. Sì, ma un pezzo di plastica con una foto, non si capisce niente. Appunto. Allora, Don Giulio, buongiorno, un parroco. Buongiorno Don Guido, parroco. Don Guido. Della diocesi di Bergamo, sì. C'è una truffa mirata contro i preti. Allora, regolarmente ogni anno più o meno verso settembre-ottobre, quando avvengono le nuove nomine dei parroci e quindi si arriva nuovi in parrocchia, nell'arco di un paio di mesi si presentano un po' tutti. Arrivano finti preti? Finti preti? No, si presentano un po' di varie personalità. Ah, e quando arriva un nuovo parroco, quindi non conosce bene la sua parrocchia, arrivano e dicono è scaduto quel contratto, occorre rinnovare quel documento, quella certificazione non è più valida. Ma la più simpatica che mi è accaduta è che arrivano, che si spacciano per restauratori, ti chiedono di dargli un oggetto tipo un candelabro o un qualcosa per farti fare una prova. Ci vediamo tra 3 o 4 giorni e il candelabro è sparito. Cioè dicono, questa pala d'altare del 300 potrei restaurarla, dammela, me la porto a casa, ti faccio vedere come viene bene. Ecco, di solito noi un pochino cerchiamo di evitare cose preziose, però magari gli dai, che ne so, un toribolo un po' brutto e mezzo arrugginito, un candelabro un po' sporco, e quello però non torna più. Quindi faccia un appello ai suoi colleghi, Don Guido, dica esattamente, sì, a cosa bisogna stare attenti, soprattutto i giovani preti, immagino. In genere siamo noi giovani che veniamo un po' fregati, perché quelli più anziani sono un po' più sgamati. Molte volte sono anche, diciamo, preti che vengono da altri paesi, perché è molto facile, vista la penuria di vocazioni, che mandino preti che vengono, non so, dal Sud America, dall'Africa. È ancora più complicato in quel caso. Esatto, in quel caso sì. Per fortuna da qualche anno le varie curie diocesane comunicano a tutti i preti di stare attenti, anche ad esempio che arrivano, che propongono contratti di elettricità o di metano o qualcosa, di verificare sempre in diocesi se la cosa è vera oppure no. E questo è un dato interessante perché è nuovo. Attenzione, c'è una truffa mirata nei confronti dei giovani parroci che già svolgono una funzione importante e delicata, devono anche guardarsi le spalle dai truffatori dei preti. Grazie Don Guido, auguri. Giancarlo. Sì, buongiorno. Parli. Sì, denunci. Volevo denunciare una truffa online brillantissima e dal punto di vista teatrale eccezionale. In effetti io ho messo un annuncio sul sito subito.it per la vendita di un'autovettura e vengo contattato da un cittadino straniero, del francese, e che dice di trovarsi temporaneamente in Costa d'Avorio per lavoro e vuole acquistare la mia autovettura. È d'accordo sul prezzo, su tutto, gli sta bene tutto. Mi dice che soltanto che lui mi pagherà con un bonifico bancario e che soltanto quando io avrò ricevuto il bonifico bancario lui provvederà al ritiro dell'autovettura tramite un suo spedizioniere. E qui è tutto perfetto. È solo che dopo un po' di contatti lui dice di aver fatto questo bonifico e manda una copia di contatta sempre per email e manda una copia di un bonifico di una pseudobanca fatto con dell'importo che io avevo chiesto preciso e io aspetto. Dopo qualche giorno mi si presenta un fantomatico emissario dell'ambasciata della Costa d'Avorio. Sì, che tanto bene deve comprare la sua macchina, naturalmente. Questo signore con delle carte, dei documenti, dice che noi eravamo, voleva sapere la trattativa che avevamo con questo signore per la vendita dell'autovettura. E io gli dico sì, effettivamente ha acquistato la nostra autovettura, ci ha fatto un bonifico, stiamo aspettando i soldi. E dice no, guardi, questo bonifico è bloccato perché voi avete trasgredito le norme dell'importazione di valuta da stati esteri della nostra nazione così. Sì. E quindi dovete pagare una multa, però questa multa comporterà lo sblocco di questo bonifico bancario. E voi pagate la multa? E allora no, io dissi vabbè, quanto ammonta questa multa? Ammonta a 250 euro. Però insomma uno si fa i suoi calcoli, dice vabbè, la macchina ho venduta 4.000 euro, insomma 200 vale la pena, vale la pena. E però gli dissi di non avere i soldi, dissi vabbè, ma adesso non ce l'ho. Dice vabbè, io ripasso. Ma com'era vestito questo ambasciatore della Costa d'Avorio? No, era elegantissimo, proprio insomma, un signore africano era. Sì, un signore scuro. Sì. Di pelle e che era, insomma, sembrava proprio parlava un vero ambasciatore. Il francese, un emissario, sì. Parlava un po' francese così e allora sì, anche perché insomma io in sì come l'ha sistemato alla fine questo affare? È sistemato che io poi dissi di ritornare, che poi gli avrei dato questi soldi, vedevo, mi informavo un po' con mia moglie, ne parlavo un attimo e dopodiché io questo fatto ero dubbioso, dissi non è possibile, come sì. Mai una roba del genere, mi sono informato su internet. Era truffa, no, era, Che c'era una truffa in atto proprio di questi, insomma, fatta del genere. Mi sembra molto chiaro. Io devo lasciare la linea alle informazioni della borsa. È chiaro che i funzionari di ambasciata non vanno in giro casa per casa a riscuotere le multe da 200 euro. Questo mi sembra chiaro. Però è divertente la cosa. Eccellenza, questo uomo con grossa panza essere signor Rossi. Oh, signor Rosso! Eccellenza, ambasciatore, Catonco. Piacere. Ta ta ta, bum bum zu. Piacere, comodo. Tira una sedia, signore. Subito, maestà. Niente paura, non tirare mica in testa. Bubu, zuzu. Maestà. Hai spiegato al signore di che cosa si tratta? Non ancora, maestà. Spiega. Dunque, tu devi sapere che un parente tuo è morto. Scusa. Questo animale... Da che stare Italia ha imparato a parlare napoletano. Yes. Vedete che l'ambasciatore del Catonga lì è in Totò Truffa, era un vecchio espediente, ancora ne girano, ci ha raccontato l'ascoltatore in questa puntata dedicata alle truffe di Natale, che girano pseudo funzionari d'ambasciata alla Costa d'Avorio a riscuotere porta a porta multe di 200 e passa euro per automobili incautamente acquistate con valuta della Costa d'Avorio. Stiamo raccogliendo questa mattina una rassegna delle più colorite, ma ahimè più dolorose truffe che vengono fatte soprattutto in periodo natalizio. Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, raccontavo della vicenda accaduta a mia mamma, che nonostante i suoi 68 anni è abbastanza, diciamo così, sveglia. Quindi sempre anziani, sono prevalentemente vittime. Sì. Lei aveva appena parcheggiato la macchina e aveva ovviamente la borsa a terra accanto al guidatore, quindi sapendo che possono essere così rubate. Però nel momento in cui stava uscendo e fare il giro della macchina per andarla a prendere. Una signora, venendo di fronte a lei, dice: guardi signora, che le è cascato un cellulare. Mia madre si gira, si accorge che in effetti c'è un cellulare a terra e quindi va a prenderlo per vedere se in effetti fosse stato il suo. Nello stesso momento in cui lei lo andava a raccogliere, ovviamente la signora, ben vestita, italiana, estremamente gentile, apriva la portiera dall'altro lato e le rubava la borsa e tutto il resto. E il cellulare, niente, era finto? Quelli... No, il cellulare era un cellulare, tra parentesi, funzionante, ma ovviamente senza scheda, e buttato lì, insomma. Quelli da pochi soldi. Di prezzo 20 euro, 30 euro. Quindi non fate mai l'errore di andare a raccogliere quanto... no, il cellulare? No, cose per terra, assolutamente. A me... quindi è apparente uno scippo a tutti gli effetti. Esattamente. A me è capitato il problema dello specchietto, però con un signore che camminava e che io ho urtato, ma andavo così piano che mi sembrava che questo oggetto del cellulare fosse un po' troppo fuori misura, e mi ero rimasta un po' sorpresa. Poi nel momento in cui sono scesa per dire: oh, mi dispiace, è arrivata una signora che ha detto: ah, ma hai visto che cosa ti ha fatto questa signora? Ti ha rotto i cristalli del telefono. Io a quel punto ho detto: scusi signora, ma lei come fa a vedere che questi cristalli sono rotti? Allora a quel punto gli ho detto: guardi, lei prenda la targa della macchina, vada dai carabinieri, mi faccia la denuncia e ci penserà l'assicurazione. Mi sono andata e ovviamente non ho mai... Comunque, allora esiste un filone, un sottofilone di truffe, sì, è proprio un filone. Legate a... di solito sono due signore che si mettono d'accordo, si mettono d'accordo e buttano per terra un cellulare, poi con vari... momento in cui uno passa e poi dice: ah, lo vedi, te l'ha rotto. Io a quel punto mi sono solo insospettita, perché lei neanche si era avvicinata e diceva di questi cristalli. Beh, diciamo, è uno specchietto per le allodole, devono distrarti in qualche maniera, poi operano. Giulio, buongiorno. Giulio. No, buongiorno Nicoletti. Io qualche anno fa ho lavorato con un truffatore di professione. Come assistente? No, io ero... io faccio impianti elettrici. Questa persona era ormai stata bruciata in più province d'Italia. Ah, quindi era pentito? Era ritornato alla sua professione di origine, che era il muratore. E quindi, vabbè, dopo un po' entriamo in confidenza e cominciamo a raccontare come si svolgevano queste cose. C'era veramente da imparare. Ci dia qualche lume, così salviamo qualche vecchietto per Natale. Si trasferiva in una città per alcuni fine settimana, comprando, spendendo, facendosi notare chiaramente come persona benestante, e poi quando c'era da fare il colpo, quindi solitamente acquistare una pelliccia piuttosto che dei diamanti o roba del genere, si presentava solitamente il venerdì sera e rilasciava un assegno falso. Chiaramente queste gioiellerie, queste pellicerie chiedevano riferimenti presso l'albergo dove lui solitamente alloggiava, e i quali chiaramente referenziavano, diciamo, la persona, che in questi tempi ci starebbero un po' più attenti. Sì, beh, certo, in questo momento, in questi tempi, con gli assegni sono visti sempre con grande sospetto. Sì, è molto... Però, difficile. Io sto parlando degli anni 80, dove comunque c'era la Milano da bere. Certo, erano gli opulenti anni 80, certo. Quindi il venerdì non c'era la possibilità poi di incassare l'assegno fino al lunedì, e quindi lui ballavano molto di più gli assegni. Grazie. Grazie Giulio. Sergio. Sì, buongiorno dottor Nicoletti, complimenti per l'ottima conduzione. Ascolti, io chiamavo perché fino a un po' di tempo fa non passava giorno che il telefono di casa di mia madre, persona di 80 anni, non mancava giorno che telefonava qualcuno come rappresentante di qualche associazione di volontari per l'assistenza ai disabili oppure per la sclerosi multipla o altre cose, chiedendo soldi ovviamente. Dal momento che questi chiamavano a tutte le ore del giorno ripetutamente, a un certo punto ho suggerito a mia madre di fare una cosa semplicissima, e cioè di dire a questi signori semplicemente di fornire il conto corrente. A quel punto, uno alla volta, sono spariti tutti, perché chiaramente loro passavano esclusivamente a domicilio e quindi mettevano di fronte la persona a un certo punto che non poteva più rifiutare. In questo modo, non potendo presentare ovviamente un conto corrente, perché nel momento in cui lo presenti tu puoi anche accertare di chi è, uno dopo l'altro sono spariti tutti. Devo dire che il ricatto emotivo è notevole. Ricordo adesso che capita spesso all'entrata e all'uscita delle metropolitane romane ragazzi, anche giovani, che ti fermano con dei dépliant, delle foto di bambini mostruosamente deturpati da malattie terribili, malati, amputati, e ti dicono: puoi fare qualcosa a questi ragazzini? È brutto dire di fronte a altra gente no, non me ne importa niente, si finge di essere si passa per spietati. La stessa maniera quando viene il tipico ex tossico con la penna biro in mano e ti dice vuoi firmare contro la droga, quello ormai diciamo uno è abituato, dice no, devo appena farmi da poco, devo andarmi a fare, non mi va di firmare contro la droga, rimane impietrito in quel momento, che sono tutte maniere in realtà per estorcerti i soldi. Sergio? Sì? Sì, hai qualcosa da dire altro, da concludere? No, dicevo semplicemente, basta semplicemente farsi dare il numero di conto corrente. Chiedere il conto corrente, nel caso che uno non avesse la forza di mandarli a quel paese, sì. Esattamente, se uno vuole versare qualcosa lo fa, altrimenti basta, è chiuso. Felice. Sì, buongiorno e grazie. Volevo segnalare una qualcosa che mi è stato segnalato da un amico che ogni tanto manda dei mail di avvertimento pregando di divulgare la notizia. Sarebbe questa: nella zona di Milano esiste questa cosa, fuori dai supermercati regalano dei ciondoli portachiave assolutamente gratis, di solito a gente che ha delle macchine grosse, nei quali ci sarebbe un microchip che segnala se poi uno è in casa o no. Io non so se sia vero, per l'amor di Dio, volevo sapere da voi se... Sa molto di leggenda metropolitana, quindi dei ciondoli con un microchip li regalano così, uno se lo porta a casa e questo... conosci i suoi movimenti. Oddio, è costosa come perché in realtà il microchip dovrebbe essere collegato a un sistema GPS, dovrebbe essere un rilevatore, non è così facile. Però se qualcun'altra notizia di questa nuova truffa, ci sarà interessante per noi approfondirla. Roberto. Sì, buongiorno. L'anno scorso a Natale decidiamo di affittare una casa montagna per tutta la famiglia per passare le vacanze sulla neve. Mi rivolgo a un sito internet di una nota rivista del settore, forse la più nota, mando una serie di rispondo a una serie di annunci, mi risponde una signora, mi dice che la casa è disponibile, iniziamo una fitta di discussione via mail, mi manda tutti i dettagli, le fotografie, la mappa della casa, l'indirizzo, il prezzo, le spese. Decido che la casa va bene, è perfetta, ma a questo punto chiamo la signora, mi dà un numero di cellulare spagnolo. La chiamo, gli dico come mai spagnolo? La signora mi dice ma io sono italiana ma lavoro in Spagna, torno per le vacanze di Natale, iniziamo una discussione telefonica, alla fine decido che la casa mi va bene e mi dice di mandargli un acconto. Gli mando un acconto presso un conto corrente bancario spagnolo. Dopodiché sparisce tutto. Poco prima di Natale comincio a chiamare questa persona, il telefono è irraggiungibile, la mail mi rimbalza indietro perché non è più attiva. Insomma, si è preso l'indirizzo la sola, della sede spagnola è totalmente inesistente e la casa chiaramente non esiste. Bene, Guglielmo Marchetti, no, bene per niente. Rispetto a quello che è stato elencato dai nostri ascoltatori, c'è qualcosa da approfondire o qualcosa da aggiungere e integrare? Beh, guardi, io ho sentito con attenzione, sono tutte truffe che noi insomma ormai le abbiamo imparate a conoscere. Quella dei microchip potrebbe essere una truffa inventata. Sì, sembra più una leggenda metropolitana, tipica. Ci sono altre truffe, per esempio adesso è il periodo di natalizio, i nonni devono fare i regali ai nipoti, attenzione quando vanno in banco, in posta, a ritirare i soldi, perché di solito c'è sempre qualcuno che li guarda, quindi magari si presenta da casa come funzionario di banca, il finto funzionario suona il campanello dicendo che potrebbe esserci stato un errore nella consegna dei soldi, delle banconote, l'anziano consegna i soldi, il truffatore fa finta di contarli e di controllarli e li sostituisce con banconote false. Questo devono stare molto attenti perché comunque è una truffa che ancora è in vigore. Ma devo ricordare che nessun funzionario di banca o di posta si presenterà mai a casa vostra. Sicuramente agli anziani sarete contattati via filo e vi diranno di andare all'agenzia. Quindi sicuramente nessun funzionario di banca o di posta si presenterà a casa vostra per chiedervi di controllare. Una cosa che devo... Denunciare un tentativo di truffa o una truffa che si è consumata è un obbligo giuridico e morale del cittadino. La vittima deve segnalare la truffa alla polizia postale. Anche se il singolo caso non si concluderà con la cattura del truffatore, la denuncia servirà comunque ad accrescere la conoscenza statistica del problema e ad attivare sistemi di informazione appropriati da parte delle autorità. spesso il truffatore, scoperto, minaccia la sua vittima di ritorsioni o addirittura di denuncia con richiesta di risarcimento. Si tratta solo di intimidazioni. Il truffatore online non è un criminale violento e le conseguenze delle sue minacce restano limitate all'ambito psicologico. 800 24 00 24, ancora fino alla fine della trasmissione c'è tempo per segnalare le truffe che soprattutto in tempo natalizio hanno un loro picco di intensità. Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Io volevo segnalarvi una truffa che qui in Romagna va moltissimo, che in realtà poi ho visto anche in altre parti d'Italia, dove una signora, generalmente di etnia rom, avvicina i passanti chiedendo loro, convincendo questi passanti a farsi dare una banconota generalmente da 20 euro, promettendo che la banconota sarà restituita per una sorta di rituale di buon auspicio. E quindi insomma è molto convincente e generalmente riesce a farsi dare convincente, cioè prima di dare, adesso non voglio sembrare, una banconota in mano un'anziana rom che te la chiede per strada, le possibilità di riaverla indietro sono limitate, diciamocela. Esattamente, anche perché dopo cosa fa la signora? Generalmente fa questo rituale, salvo poi sputare sulla banconota e a quel punto la restituisce. Ed è chiaro che la banconota scaracchiata non la rivolge nessuno e quindi lei se la ritiene. Per di più chiede anche di andare a versare un obolo di circa 5 euro in una chiesa, altrimenti vi potrebbero essere una sorta di ritorsione maligna o quantomeno momenti di forte sfortuna. Quello per dare una giustificazione, diciamo, etica al gesto. Esattamente, quindi molte persone rimangono abbindolate da questa, dalla capacità con la quale... E magari vanno anche a dare 5 euro in chiesa poi. Assolutamente sì, quindi oltre al danno alla destra avrò un risultato di circa 25 euro perduti per... Sì, però posso dire la verità, adesso non voglio sembrare crudele, gli sta bene, scusate, ma se riesce a trovare persone che danno in mano a banconota una persona sconosciuta, il minimo è questa ci sputi sopra. Grazie comunque, questa è interessante. Riccardo. Salve. Allora niente, rispondo a un annuncio insieme alla mia ragazza riguardo spettacolo, danza, la mia ragazza ballava, andiamo a questa agenzia molto ben organizzata, quindi salottino, mobili, facciamo le foto in uno studio fotografico ben attrezzato, aspettiamo in sala d'attesa, facciamo il colloquio e guarda caso c'erano delle figure che rispecchiavano proprio il profilo della mia ragazza. Addirittura cercavano con lingua spagnola, lei l'aveva specificato nel curriculum, e niente, dopo fatto tutto ci chiedono 150 euro per l'iscrizione all'agenzia. Sì. E eravamo ragazzi e lì per lì non avevamo soldi, io avevo 20 euro, ho fatto guardi io c'ho 20 euro, ho fatto vabbè lasci questi come acconto, poi così poi ripassate e date... Proprio morti di fame. Esatto, proprio a chiedere... Sono subito corsi a farsi un panino. Esatto. Hanno svoltato la giornata. E niente, tutto qui. Poi ovviamente non si sono fatti sentire, il lavoro non c'era. Beh, chiaro. Avete perso 20 euro, in fondo vi è andata bene. È andata bene. Guglielmo Marchetti, che ricordo funzionario della Polizia Locale presso la Procura di Roma, dirigente dell'Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali delle Polizie Locali. Sta terminando un discorso, poi vorrei sapere qualcosa di più sulla banconota sputata, se esiste anche in altre parti d'Italia. Sì, no, dicevo solamente rispetto al bancomat. Poi tra l'altro volevo, questa ultima cosa mi ricorda negli anni 70 andava in giro quello per i bambini, le fotografie per i bambini, certo. Che poi dovevano andare al festival lì lo zecchino d'oro, certo. Lo zecchino d'oro, e mi ricorda tanto quello. Comunque per quanto riguarda i bancomat, attenzione, quando si prendono i soldi bisogna sbrigarli a metterli via subito, e quindi bisogna andare in un punto dove c'è gente. Tra l'altro ricordate di non lasciare mai o buttare lì intorno il biglietto con quanto si è prelevato, perché da lì possono scoprire quanti soldi hai prelevato, vengono a casa e non hai prelevato 500 euro, mi devi dare, quindi la truffa del finto. Ah, per fare la truffa del finto funzionario. Certo, perché sennò non possono sapere quanti soldi uno ha prelevato, perché non è che stanno lì vicino. Quindi lo scoprono, quindi i biglietti portateli sempre dietro, poi magari li buttate a casa. Questo è importante. Per quanto riguarda gli zingari, sì, questa è classica, la sappiamo, le becchiamo anche parecchie. E io devo dire solo una cosa, ho notato in questi anni, specialmente adesso che sono in procura da qualche anno, che le persone anziane si vergognano di parlarne con Sì, abbiamo già fatto noi un'altra trasmissione, che il vero problema è che l'anziano sì, truffato è un problema grosso, si sentono quasi in colpa di raccontare queste cose. Devono denunciare. Ma è vero che stanno facendo a Roma proprio un corso ai vigili, alla polizia, per aiutarli a superare questa sì, vergogna. Perché se altrimenti nell'interrogatorio non dicono tutto, perché si sentono in colpa di essere stati stupidi. Esatto. Devono riuscire a capire che se loro denunciano, con il loro aiuto possiamo evitare altre truffe. Non è vergogna di essere stati di cuore generoso. Gabriella, questa è molto bella. Gabriella, non la conoscevo. Buongiorno. Grande, grande truffa, bellissima. Buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Brescia e dalle nostre parti sta succedendo questo. Sono fuori casa, tu parcheggi la bici, ti viene rubata. Poi dopo 3 o 4 giorni la ritrovi sotto casa con un biglietto di scuse dove dice che per urgenza hanno dovuto usare la bici, si scusano e così come regalo ti danno un biglietto per andare a vedere un cinema a una multisala. Tu verifichi, hai il posto prenotato, vai quel giorno e loro intanto ti vuotano la casa. Beh, mi sembra fantastica questa cosa. Quindi attenzione, allora, vi rubano la bicicletta, la ritrovate con un biglietto, scusa tanto. Di scuse? Mi serviva tanto. Un'emergenza, l'han presa. In cambio ti do questo biglietto per il disturbo, dici. Sì. Quella tutta contenta, corre al cinema a vedere il cine panettone. Tu vai a vedere il cinema, tranquillo, già pagato e tutto. Popcorn, Poi tu rientri e trovi la casa vuota. E questo è successo a lei, Gabriella? No, non è successo a me, ma una conoscenza dalle nostre parti. Quindi. Attenzione quindi alla truffa della bicicletta con biglietto annesso. Mario? Sì, salve, chiamo la provincia di Bari. Sì, mi rifaccio a una telefonata precedente di una truffa, praticamente all'uscita del supermercato, chiedevano dei soldi per aiutare una fantomatica associazione di bambini. La cosa che mi ha sorpreso è che era credibile, questo volantino era diviso in due parti. Da una parte le solite immagini che insomma toccano l'animo delle persone. Sì, bambini straziati, denutriti. Dall'altro lato c'era una dottoressa, non insomma, era ovviamente elogiata per l'impegno a favore di queste persone. Io ovviamente le ho detto che farò un versamento, mi informerò sull'associazione, ho chiamato la dottoressa, la sorpresa è che il numero era vero. Mi ha risposto questa dottoressa che ha preso subito le distanze con un disagio allucinante da questa associazione, dal che ho capito che insomma... Avranno preso in internet la foto di una dottoressa vera con riferimento. Evidente, no, ma la dottoressa si capiva che conosceva questa associazione, però ha preso subito il distacco perché io poi non mi sono presentato. Ma lei avrà fatto la debolezza magari di avere fiducia in loro, di aver permesso di prestare la sua immagine e adesso sì, ne starà pagando il prezzo. Considerazione, se mi permette, Nicoletti, non so, correggetemi se sbaglio, io credo che le vere vittime di queste truffe non sono i passanti, ma questi poveri bambini e l'associazione che direttamente si impegnano con ogni mezzo per aiutare questi bambini, ce ne sono tante credibili al mondo. Assolutamente. E vorrebbe una legge, ma secondo me una delle più pesanti, perché credo che questo sia uno dei più ignobili, come dire, atti di ne sono stati presi anche ultimamente, arrestati ultimamente. Grazie, ci sentiamo dopo Natale a questo punto.